sta televisione di merda. Lo Mimmo, lo Fusca e lo Federico arreda insieme. Ciamo, ciamo! È il nuovo male del secolo. Sta televisione li fotti in un cirpietto. Mi fanno vetiri sul lucu tu cavolo. No, e fessi di cristiani capuro non ci credono. È il nuovo male del secolo. Sta televisione li fotti in un cirpietto. Mi fanno vetiri sul lucu tu cavolo. No, e fessi di cristiani capuro non ci credono. Uno torna di fatia e si vola, rilassa. Piccia la televisione e gli è subito una tassa. Tocca, gira, gira, stai sempre la pubblicità. Cava, spiccia, cadra, la fanno pure stuta. E in mezza dia e arriva l'ute nel giornale. Stiamo tutti a tavola pronti, pronti per mangiare. Mi difessi, sa, e c'è ti fanno vedere. Guarda niente, sangue il marito, cacciti la moglie. E siccome non sa ancora contenti, gli è ora di caffè e ti lavata di denti. Giri canale, stai medicina 33. Ancora sangue, trame e malattie, tutti pitte. E vabbè, piensi, cangiamo a retu canale. Scappa a mienza la De Filippi, di pagina morale. Sanca Pioci l'ha già visti proprio tutti. Meno male che ora di fatia, questi stanno proprio strutti. È il nuovo male del secolo. Sta televisione li fotti in un cirpietto. Mi fanno vetiri sul lucu du cavolo. No, e fessi li cristiani capuro non ci credono. È il nuovo male del secolo. Sta televisione li fotti in un cirpietto. Mi fanno vetiri sul lucu du cavolo. No, e fessi li cristiani capuro non ci credono. Sta televisione rovina sta società. Non comando una distanza, mamma c'è disgrazia. Babilonia bucerà. Whippy mi faia, listen to the rebels and whippy them raga. These are the reality, they are much falsity. Little giornali dicono c'è capolo non si. Money in the earth, a powerful divinity. I crede and believe more if they watch TV. La televisione comanda ogni cosa. Cazza gusto di DJ e noi cazza marrota. Senza riflettere questa scatola ogni giorno un plasma. Si sta parlo io, no no no, sono tu un fantasma. Ogni boda con la picciu si mi stona la gara. Mica soli vodica, buoni cosa hanno fatto. Ma già stato dito fino a mamma, mamma già stizzato. Sto sistema, vuole migliorato. È il nuovo male del secolo. Sta televisione li fotti in un cirpietto. Mi fanno vetiri sul lucu du cavolo. No, e fessi li cristiani capuro non ci credono. È il nuovo male del secolo. Sta televisione li fotti in un cirpietto. Mi fanno vetiri sul lucu du cavolo. No, e fessi li cristiani capuro non ci credono. Ciao, ci saluta l'analogico, ecco arriva il digitale. Bella gente, questo è solo scatolame. Mo mandatelo a cagare. State attento paesano, non ti fare imbambulare. Sti ladri muci tu nella rovina ne stai a portare. Sulu sulu ti la capire, qualche riga ti fanno guardare. Noni non ti fa rapire, no si fa allontanare. Ti drogo nulla capo, culto femmine alla nuta. Casi lecco nulla, dici tu e lui quel che ti stanno a fare. Ma ancora non ha capito che sta a pagliare. La merda che ti stanno a dare. E allora, così vuoi e così sia. Pigliati l'unuta e non ti lamentare. Mamma mia, ti l'ha già detto, stati sotto che ti faci male. Mo tocca pagli cambiali, bravo lo margiale. E allora, così vuoi e così sia. Pigliati l'unuta e non ti lamentare. Mamma mia, ti l'ha già detto, stati sotto che ti faci male. Mo tocca pagli cambiali, bravo lo margiale. È il nuovo male del secolo. Sta televisione li fotti in un cirpietto. Mi fanno vetiri sul lucu du cavolo. No, e fessi li cristiani capuro non ci credono. È il nuovo male del secolo. Sta televisione li fotti in un cirpietto. Mi fanno vetiri sul lucu du cavolo. No, e fessi li cristiani capuro non ci credono.